Eravamo lì quella notte, è stata anche interessante con questo gruppo di giovani che si sono opposti al trasferimento, un po' proprio direi avventuroso, dei 14 da Caltanissetta a Pian del Lago a Ponte Galeria, quella notte, una notte un po' turbolenta, anche se non ci sono stati grandi scontri tra i giovani e la polizia, semplicemente un tentativo di impedire questo trasferimento e di capire chi erano quei 14. La parte della polizia, dopo un po' di parapiglia, sono riusciti a trasferirli a Ponte Galeria. E gli avvocati stanno lavorando e hanno fatto proposte affinché i 14 di Ponte Galeria non vengano deportati o rimpatriati, come si vuol dire, mentre gli altri 22 che sono al CPTA, al Centro di Identificazione di Caltanissetta Pian del Lago, si sentono voci, si spera, voci ufficiose dice che riceveranno il permesso per umanitario. Anche poi è sempre molto difficile determinare la differenza tra umanitario e asilo politico, perché oggi l'Africa, buona parte dell'Africa, vivono un momento molto difficile e la guerra è presente in vari stati, anche se qualche volta non c'è il riconoscimento ufficiale della guerra in corso, però sono sempre situazioni estremamente difficili, di estrema precarietà, di povertà, di fame, di tragedie veramente umane. Sono situazioni di estrema difficoltà, anche se a loro non è riconosciuto il diritto di asilo politico, però a scopo umanitario viene dato loro il permesso. E questa è la nostra speranza per la quale ci battiamo. Come Comboniani, pubblicamente abbiamo detto, abbiamo fatto un annuncio al ministro Pisano, al prefetto di Caltanissetta, che siamo disposti ad accoglierli noi e assisterli, ad introdurli, diciamo, in Italia, all'interno della società, facendo il possibile perché questo sia realizzato. Vogliamo vedere quali saranno le conclusioni di questa situazione legata alla Capa Namur. Dopo prenderemo decisioni e continueremo la nostra battaglia contro i CPT. Una battaglia, una campagna più che una battaglia, dove varie associazioni, la rete di cui noi facciamo parte, il tavolo per il libro bianco della Commissione di minoranza del Senato, di cui faccio parte, sta portando avanti. Ma per noi è una causa legata soprattutto agli immigrati e certamente non siamo così stupidi da non capire che ci sono anche grossi problemi legati a quella che è la visione del futuro, ma su questo dovremmo operare. Dovremmo elaborare insieme una visione del futuro capace di integrare già una brutta parola, cercare una società che sia diversa. Purtroppo troviamo spesso nel Ministero degli Interni, il Dipartimento dell'Immigrazione, troviamo un'estrema chiusura, una rigidità incredibile. Abbiamo avuto occasione il 31 gennaio di parlare con i prefetti e con il capo dei prefetti e ci siamo accorti che esiste davvero questa chiusura e rigidità che fa di questo mondo dei CPT un mondo il più molto segreto, molto nascosto, dove non c'è la trasparenza, dove come nel caso della Capa Namur le procedure, il processo legale, giuridico, costituzionale non viene seguito e il più delle volte, questo è vero, i prefetti nelle singole città sono dei semplici esecutori, senza un margine di libertà per quel che riguarda i CPT e il problema dell'immigrazione.